Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, puntata che coincide quella di questa sera con il rientro dal ponte che inaugura l'estate. Parliamo allora di piattaforme che semplificano la vita di tutti noi viaggiatori e promuovono un nuovo turismo esperienziale, vuole la definizione verso le mete italiane. Dai cinema sui tetti a quello in piscina, passando per il fenomeno del secret cinema, grandi film ricreati live per il pubblico. Ne parliamo nel Focus sui trend. Sdraiati, indaffarati o proattivi sono i millennials, i protagonisti del mondo dei consumi. La riflessione finale è dedicata a loro. Passing by, they mean a trip to Paris or Rome or someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. Treno o aereo, traghetto o aereo più auto, e l'autobus? Tempo di pianificazione viaggi per le nostre vacanze. Se anche voi siete fra quelli che si perdono tra mille siti cercando la soluzione migliore, sapete che sono 22 i siti visitati in media per la prenotazione di un viaggio. Se siete fra questi, dicevo, la piattaforma che vi sto per raccontare fa al caso vostro. Si chiama Wanderio, è un'applicazione che semplifica la prenotazione di un viaggio online permettendo di confrontare tutte le alternative di trasporto possibili e di acquistare il migliore itinerario con un solo clic, tutti i biglietti con un'unica transazione, cavalcando la nuova tendenza del turismo digitale, il trasporto multimodale. Matteo Colò è il fondatore di Wanderio. Wanderio è un'agenzia di viaggi. Rispetto, diciamo, a quelle che oggi sono disponibili sul mercato, si caratterizza perché aggrega tutti i possibili mezzi di trasporto che sono disponibili per raggiungere una destinazione, quindi confronta voli, treni, bus, ma anche tutti quelli che sono i servizi che di collegamento ad aeroporti e stazioni. Oggi sul mercato non è più solo il volo, diciamo, il mezzo di trasporto disponibile. Soprattutto sul mercato europeo ci sono treni ad alta velocità, bus a medio e lunga percorrenza che sono diventati molto economici, per cui gli utenti hanno effettivamente bisogno di trovare tutte le informazioni su questi mezzi di trasporto su tantissimi siti diversi, quindi perdendo una marea di tempo per organizzare i propri viaggi. Con Wanderio abbiamo aggregato tutti questi mezzi di trasporto e tutte le relative informazioni e diamo la possibilità quindi di prenotare un viaggio, potendo però confrontare tutte quante le alternative all'interno di un unico sito internet o applicazione mobile. Abbiamo semplificato quella che è l'esperienza di prenotazione di un viaggio online, quindi dando tutte quante le informazioni di cui l'utente ha bisogno, ma anche un sistema di pagamento semplice e molto rapido che consente di acquistare anche contemporaneamente diversi mezzi di trasporto. È esattamente quello il punto di forza del nostro servizio. Diamo un po' di numeri, in quali paesi siete presenti, che cosa coprite in termini di offerta? Allora, a livello di offerta, diciamo, abbiamo una copertura che è prettamente europea, proprio perché europeo è quello, è il fenomeno appunto intermodale, nel senso, quindi qui effettivamente in questo mercato c'è l'esigenza di confrontare diversi mezzi di trasporto. A livello ad esempio di trasporto ground, quindi bus, ma anche collegamenti aeroportuali, oggi serviamo a livello europeo circa 700 aeroporti. Quali sono le preferenze dei viaggiatori in questo momento? Che cosa ci puoi dire? Ma sicuramente c'è un trend molto interessante sulla diffusione dei bus, quindi proprio autobus o pullman a media e lunga percorrenza, anche perché sul mercato sono entrati dei provider che sono, diciamo, bus a un euro, che rendono, diciamo, viaggi più lunghi però effettivamente molto molto convenienti, quindi rispetto a quello che può essere il treno ad alta velocità o allo stesso volo. Quindi c'è sicuramente un trend molto importante intorno a questi mezzi di trasporto, ma anche chiaramente su tutto quanto il trasporto con i treni ad alta velocità. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. luoghi comuni è fatto il turismo straniero in Italia. Colpa, certo, di chi ha voluto continuare a proporre un'immagine stereotipata del nostro paese, ma colpa anche del fatto che a proporre viaggi nel nostro paese sono realtà straniere, i grandi portali di prenotazione, colossi contro i quali l'arma vincente può essere il cosiddetto turismo esperienziale, servizi turistici non convenzionali in cui la conoscenza del territorio, della tradizione e delle persone può fare la differenza. È la filosofia di ItalyXP che ci siamo fatti raccontare dal fondatore Saverio Castilletti. Attraverso di noi i turisti che decidono di pianificare un viaggio in Italia possono, dopo aver prenotato volo e albergo, possono prenotare tutta una serie di attività che poi andranno ad arricchire il loro viaggio una volta in Italia. Quindi si va dalle tradizionali visite guidate delle attrazioni più famose a attività quali cooking lesson, escursioni a cavallo per i vigneti, piuttosto che tour in auto d'epoca o in barca nelle zone di maggiore attrazione. A quale tipologia di turista vi rivolgete? Abbiamo una clientela di fascia medio-alta e diciamo che a livello di provenienza geografica c'è chiaramente una predominanza per quel che riguarda il mercato americano. Poi abbiamo tanti inglesi, australiani, indiani, argentini, canadesi, insomma è una clientela che viene da non proprio da vicinissimo, a parte gli inglesi, quindi sono clienti che una volta deciso di venire in Italia ci tengono a organizzare per bene il loro tempo e a ottimizzare un po' le giornate che vengono a fare, che vengono a spendere, a passare in Italia. Clientela di fascia appunto alta, medio alta, come fascia d'età siamo tra i 40 e i 60 anni circa, quindi è una clientela non proprio fatta da giovanissimi, perché probabilmente insomma anche per la tipologia di attività siamo un po' focalizzati su clienti di un determinato tipo, non abbiamo i giovani, i backpackers eccetera o i catch surfers. Nella vostra home page campeggia in evidenza "siamo italiani" in un mercato, quello del turismo esperienziale, in cui spesso sono stranieri che vendono esperienze italiane. Per voi questa è una sottolineatura importante? Questo per noi è un punto di forza, poi per carità può essere sempre interpretato in tutti i modi possibili purtroppo, però per noi rappresenta un punto di forza, perché il fatto di essere italiani ci consente appunto di offrire servizi veri e non stereotipi e luoghi comuni. Io faccio sempre l'esempio del cappuccino dopo cena che nessun italiano sognerebbe mai di prendere, o di altre mille italianizzazioni di cose che appunto vengono esportate all'estero e poi diventano italiane quando invece italiane non sono. Noi cerchiamo di offrire un'Italia vera, autentica, che esiste, fatta da italiani, non da stranieri che magari hanno deciso di utilizzare il nostro paese per farci del business anche a livello turistico. E poi purtroppo noi italiani da questo punto di vista non siamo bravissimi, non riusciamo a valorizzare il nostro paese, non riusciamo a accogliere le opportunità che il nostro paese da un punto di vista delle attrazioni, da un punto di vista storico, culturale, geografico eccetera riesce a offrire. Quindi per noi questo è un elemento di rottura, cioè il fatto di essere italiani, di essere qui, di conoscere noi il paese, di sapere esattamente cosa poter offrire e cosa invece diciamo esiste ma solo negli stereotipi e nei luoghi comuni. Quali proposte hanno riscosso più successo e quali trend si possono desumere dalle proposte appunto più acquistate sulla vostra piattaforma? Ma chiaramente ci sono dei best seller che sono quelli tradizionali, quindi i classici tour guidati nelle attrazioni di maggiormente richieste, dal Colosseo al Vaticano a Chianti eccetera, però anche su queste attività tradizionali c'è un trend molto interessante, che è quello di rendere un po' più esclusiva anche l'attività magari che si fa da tantissimo tempo, l'attività tradizionale, quindi il fatto di non andare più in gruppi troppo numerosi, il fatto di fare queste attività a livello privato, magari con degli accessi esclusivi, magari con degli itinerari un po' personalizzati. E poi si sta ampliando tantissimo tutto il focus legato al comparto del food and wine, tutte le attività legate al al mondo enogastronomico, le degustazioni, i food tour. Noi facciamo diversi food tour per le vie del centro delle principali città italiane, che consentono a questi turisti di scoprire dei posti, di scoprire dei cibi e delle cose fatte in piccole botteghe che altrimenti da soli non riuscirebbero mai a scoprire, a trovare. Quindi cerchiamo di dare la possibilità anche di vivere un po' da italiani anche nel poco tempo che comunque chi viaggia ha a disposizione. Estate uguale cinema all'aperto, noi siamo andati a caccia dei più innovativi, dai tetti di New York alla Londra più segreta. Restate con noi subito dopo la pausa. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta Essere e Avere. Una folla non pensa, non sa quello che fa. Questo lo diceva il grande Spincerciase in furia. Allora, che dici? Ce lo facciamo vedere il film a queste povere pazze? Magari, ma come? Si può fare? Focus sui trend. Dedicato al cinema, come annunciato, il focus sui trend di questa settimana, insieme a Carlo Ricciardi di Future Concept Lab, abbiamo cercato i nuovi spazi e i nuovi format, dagli schermi più improbabili alle sale più alternative. Ciao Carlo, ben trovato. Buonasera a voi. Partirei dal Secret Cinema di Londra, non certo un fenomeno nuovo, ma un fenomeno di cui si continua a parlare, vale sempre la pena farlo, raccontarlo. Appuntamenti segreti in costume per rivivere in modo interattivo i film del passato. Sì, Secret Cinema è una compagnia inglese che fonde film, musica e teatro dedicandosi alla creazione e rappresentazione di mondi, luoghi, proiezioni ed eventi ispirati ai film più famosi, che possono essere visitati acquistando il biglietto in location che rimangono segrete fino all'apertura ufficiale, da cui il nome Secret. Ispirato alle proiezioni a sorpresa del London Film Festival, Secret Cinema continua a riscuotere un enorme successo dal 2007. Ho guardato il sito secretcinema.org, le 6 date previste per luglio, andrà di scena Dirty Dancing, sono tutte sold out per prezzi, tra l'altro, Carlo, non così economici. Si parte dalle 65 sterline, 85 euro circa, però bisogna dire l'organizzazione è impeccabile. Dall'inizio, tramite i social network, vengono forniti gli indizi su come vestirsi ed è tutto organizzato proprio nei minimi dettagli. All'appuntamento gli attori accolgono gli spettatori e li smistano sugli autobus che li porteranno in un ambiente in cui realtà e finzione si mescolano. Tutto all'insegna del tell no one, non dirlo a nessuno, deve essere tutto segreto, come dice appunto Secret Cinema. L'estate scorsa, in occasione dell'anniversario di Ritorno al Futuro, Secret Cinema ha ricreato l'intero sito di Hill Valley, la cittadina dove è ambientato il film. Passiamo adesso alle rassegne, ai festival che sperimentano le location più insolite per le proiezioni. Sì, da tempo le proiezioni non sono confinate esclusivamente alle classiche sale, ne sappiamo qualcosa noi italiane con le nostre numerose rassegne di cinema sotto le stelle, ma si tengono a volte in contesti naturali e non assolutamente sorprendenti. Da quasi 20 anni, ad esempio, la rassegna Film on the Rocks si svolge nello spettacolare anfiteatro Red Rocks nei pressi di Denver, in Colorado. Qui le quinte naturali delle rocce permettono di assistere agli spettacoli in un ambiente davvero speciale. E va senz'altro citato l'Arcipelago Cinema, che è stato progettato dall'architetto tedesco Ole Schieren, che ha ospitato nel 2012 il Film on the Rocks Yahoo Festival sull'isola di Kudu, in Thailandia. Qui la platea e lo schermo erano ospitati su piattaforme galleggianti in uno scenario naturale assolutamente incredibile, tanto che gli spettatori facevano fatica a concentrarsi sul film. Beh, all'epoca le immagini fecero davvero il giro del mondo, le ripostiamo anche sulla nostra pagina Facebook. Non solo natura, dicevi, Carlo. No, talvolta non è necessario allontanarsi dal contesto urbano per vedere una pellicola in un ambiente un po' come dire, speciale. Ad esempio il Rooftop Film Club organizza la visione dei film sui tetti di alcuni palazzi di Londra, New York, Los Angeles o Chicago. L'Hot Tub Cinema, che è stato già proposto in molte città, approda in questi giorni a Melbourne, in Australia. Di cosa si tratta? Qui gli spettatori possono indossare il costume da bagno e guardare un film comodamente a mollo in micro piscine gonfiabili con acqua riscaldata. Però è a Napoli che hai scovato invece, Carlo, il vero gioiello. Il vero gioiello italiano è stato inaugurato qualche mese fa a Napoli, si chiama Heart ed è un cinema che ha sostituito le 340 classiche poltrone con 110 sedute ultracomode, letti a tre piazze della prima fila, divani a due posti nelle ultime file e in mezzo poltrone molto ampie. Vicino alle poltrone, che occupano appunto la zona centrale, si trova un poggiapiedi dove mettere giacche e borse. Durante la proiezione si può mangiare utilizzando un tavolino per poggiare le portate. Beh, è sicuramente un'ambientazione particolare, anche un po' domestica in qualche modo. È una formula ibrida tra cinema, musica e cibo in una sala che sa molto di storia, l'Ambasciatore di Napoli appunto. Sì, e forse Arte è la risposta alla crisi sia del monosala che dell'anonimato del multisala. L'operazione tutela tuttavia la bellezza e la magia del passato di questa storica sala napoletana. Il prossimo caso ci porta a Milano, a che fare con un servizio per un pubblico particolare. Sì, perché andare al cinema quando in famiglia è arrivato un bambino non è facile. Spesso i neogenitori pensano di dover rinunciare al grande schermo. Il Cinema Anteo di Milano, in collaborazione con Arce e con il supporto di Chicco, organizza da qualche anno Cine e Mamme, ovvero una proiezione di film in prima visione in uno spazio a misura di mamma e bambino. Qui le luci sono soffuse, il volume è più basso del solito e l'accesso in sala a carrozzine e passeggini è garantito. E poi è presente un'area nursery attrezzata con fasciatoio, pannolini, salviettini detergenti, sterilizzatori, biberon, eccetera. Questi ultimi due casi lo testimoniano, il mondo del cinema guarda anche alle nostre case. In questo mood, per così dire, a fare notizia è l'iniziativa di Sean Parker, il mitico, diciamo così, fondatore di Napster. Sì, che invece di contrastare un'industria come aveva fatto nell'ambito musicale, Parker cerca l'appoggio delle case produttrici. Parliamo di Screening Room, un set-top box domestico con il quale vedere film già dal primo giorno di uscita a casa propria. Con $50 si ha accesso ad un film già disponibile in sala per le classiche 48 ore. Questa modalità non ha suscitato particolarmente reazioni negative da parte degli esercenti, perché il 40% dell'incasso va proprio a loro. L'idea è che questo device non si rivolga al pubblico delle sale, ma anzi lo allarghi, perché diretto a chi al cinema non ci andrebbe comunque. 30 secondi per chiudere, ci sta un ultimo caso. Sì, perché i fan della realtà virtuale hanno da qualche mese una sala tutta per loro, inaugurata ad Amsterdam, il primo cinema in virtual reality, con all'interno uno schermo di proiezione individuale costituito da un Samsung Gear VR e una cuffia Sennheiser. Quindi insomma una modalità di fruizione individuale della realtà virtuale. Esatto, per guardare 35 minuti di filmati realizzati in realtà virtuali al prezzo di €12,50. Grazie a Carlo Ricciardi, alla prossima. Grazie a voi. Il consumautore. Il mondo dei consumi è cambiato, sono i consumautori a guidare il cambiamento. Questo è il punto di partenza per la nostra analisi in compagnia di Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti i radioascoltatori. Stasera di cosa parliamo? Stasera riprendiamo i nostri ragionamenti sui millennials, perché se parliamo di consumautori sicuramente in questo momento loro sono alla guida delle nuove tendenze di consumo, e mi rifaccio a un libro molto interessante e anche molto recente di Filippo Laporta che si chiama Indaffarati, ed è anche un po' una risposta diretta e indiretta agli Sdraiati di Michele Serra, no? Ricorderai che qualche tempo fa questa generazione è stata riletta in modo, diciamo, un po' lassista. Ecco, Filippo Laporta invece dice: no, attenzione, Anche lui parte come Michele Serra dal figlio, questo anche è interessante, e dice: io osservo mio figlio che ha 21 anni, mi rendo conto che è indaffarato, magari anche sdraiato, ma da sdraiato è continuamente attivo, propone magari nuovi progetti, entra in relazione col mondo, con i propri coetanei, con altre generazioni, e quindi facciamo un errore noi adulti a pensare che questa sia una generazione non legata a valori di pragmatismo. Anzi, lui dice, forse è proprio il contrario. Siamo noi che abbiamo vissuto in un mondo forse anche troppo libresco, troppo solo di teorie, e non abbiamo colto invece il cambiamento della realtà. È una generazione senza libretto di istruzioni. Qui cito l'espressione di un esperto che è anche un amico, autore di Generazione 2.0, Federico Capeci. Quindi una generazione per cui non esistono manuali, così come ormai il libretto di istruzioni nei prodotti tecnologici che questa generazione usa non esiste più, si impara appunto usandoli. Esatto, è il fare che prevale sul teorizzare, però dobbiamo anche capire, è un passaggio delicato, che il fare implica sempre anche un pensare. Quindi noi, generazione diciamo cinquantenne o anche gli stessi baby boomers, hanno sempre pensato che prima del fare c'è una teorizzazione e spesso c'è anche un'ideologia. Per loro, per i 20 e 30 anni, invece non è così, e noi molto spesso veniamo da loro diciamo anche accusati di essere solo teorici, di fare tante chiacchiere e poi di portare risultati poco visibili e poco credibili. Quindi io credo che ci sia veramente una relazione virtuosa tra le generazioni che possa essere lanciata in questo momento. Per loro la comunicazione è ingaggio, come tu ci hai insegnato altre volte, qui sta la chiave dell'approccio a questa generazione. Sì, la comunicazione è e deve essere convocativa per loro, quindi devi raccontare delle cose, ma devi anche immediatamente presentare qual è il progetto su cui tu vuoi ingaggiare gli altri. E allora lì ti seguono, io lo dico perché insegnando all'università l'ho applicato e vedo che funziona. E grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.